Dunque, stavamo parlando di Norbert Wiener di questo percorso che troviamo in molti ricercatori di questa epoca, un percorso che va dalla scoperta tecnica, scientifica, alla comprensione del rapporto fra l'attività scientifica e l'uso sociale che ne viene fatto. Sociale vuol dire poi economico, vuol dire militare in certi casi. E nel caso di Wiener, il tema, l'oggetto della ricerca cruciale, è proprio legato alla dimensione tecnica, ma anche alla dimensione umana, dal momento che, come lui stesso ha detto, la cibernetica è una scienza che ci permette di comprendere ciò che unisce gli organismi, i corpi, le menti, le macchine e i sistemi di informazione. Organismi, macchine, sistemi di informazione hanno un carattere comune sul piano, del modello, di un modello teorico, unificato. Naturalmente non si tratta semplicemente di una metafora o di una intuizione teorica, si tratta di quello che poi effettivamente sarà il sistema tecnologico informatico e di quello che sarà alla fine, nella maniera più evidente e più compiuta, la rete. La rete, infatti, può essere considerata come un sistema integrato nel quale cervelli, organici e macchine informatiche interagiscono, seguendo un modello che è un modello dell'informazione. Per poter interagire, i cervelli e le macchine debbono essere, per così dire, formattati in maniera analoga, in maniera integrata. Ecco, qui si apre tutto un campo che Wiener intuisce, prevede, comprende fino dagli anni 40. Ecco, si apre un campo che ha un ambito di tipo tecnico, naturalmente, ma che ha uno straordinario, una straordinaria conseguenzialità sul piano sociale, sul piano umano. E quindi Wiener comprende che lavorare su questa analogia delle macchine e dei cervelli apre un terreno che certamente avrà delle implicazioni di tipo economico e di tipo politico che bisogna essere in grado di prevedere fin dall'inizio. Wiener pensava anche che questi sistemi avrebbero potuto diventare il modello di istituzioni sociali e della società in generale. 2 anni dopo aver pubblicato Cibernetica, questo primo libro sulla cibernetica, Wiener pubblicò un libro molto più accessibile e intellettualmente più significativo, che porta il nome di The Human Use of Human Beings, Cybernetics and Society, che se non mi ricordo male è il titolo originario di quello che in italiano viene tradotto con Introduzione alla cibernetica. E, in questo libro Wiener sostiene che la società come insieme e anche nelle sue parti costituenti funziona in modo molto simile agli organismi e alle macchine, il che significa che la società potrebbe essere vista come un sistema che cerca una autoregolazione attraverso l'elaborazione di messaggi. In questa analogia di Wiener, per esempio, i sistemi di informazione pubblica, come i media, potrebbero essere visti come dei servomeccanismi. Poi qui entra nel merito della questione. Ecco, quindi in questo passaggio dalla elaborazione del modello nel libro sulla cibernetica alla elaborazione teorica di questo modello, Wiener ci dice che il modello cibernetico può diventare il modello che caratterizza l'insieme delle forme sociali. Computer sono diventati oggi un luogo comune, ma per i lettori di quell'epoca, di 60 anni fa, l'immagine di Wiener suggeriva che un essere umano potrebbe essere essenzialmente tradotto in un sistema di fili e di elettrodi, almeno per quanto riguarda i compiti relativi ad un gioco di informazione. Ma questa immagine, come voi sapete, le prime generazioni di computer vengono utilizzate, vengono testate sulla base di operazioni essenzialmente informazionali, come è quella ad esempio di giocare una partita di scacchi. La più immediata traduzione di un comportamento umano in un comportamento puramente matematico che rende possibile questa traduzione. E così Wiener negli anni 40 elabora questa metafora, questa ipotesi di una traducibilità dell'organismo umano e del cervello stesso in termini di reattività macchinica e informazionale. Ma questa immagine suscitava dei ricordi che per Wiener erano quelli della iperrazionalità senza sentimento, propria dei nazisti. Immaginiamoci un uomo, peraltro di provenienza, Wiener era originario austriaco, credo, e comunque aveva una conoscenza abbastanza diretta di quello che in Europa era accaduto nell'epoca nazista. Ecco, proviamo a immaginarci come può apparire a un uomo degli anni 40 o 50 questa metafora dell'organismo umano tradotto in termini puramente matematici, puramente informazionali. Si tratta di una metafora che ha una risonanza molto brutta, molto sgradevole, come un like a Hollywood nazi, come un nazista trasferito a Hollywood, il computer può giocare molto efficacemente una partita di scacchi, ma senza alcun sentimento, unicamente con lo scopo di dominare e di controllare. Questa visione diffondeva paura, come Wiener vide fin dall'inizio. I computer, suggerisce Wiener, potrebbero andare molto al di là della capacità di controllo degli esseri umani e potrebbero cominciare ad agire autonomamente. Begin to act on their own, potrebbero cominciare ad agire sulla base della loro programma piuttosto. Dall'altra parte potrebbero diventare strumenti di politici e di capitalisti unfeeling, privi di sentimento, e queste del desiderio di questi individui di automatizzare le istituzioni sociali che essi dominano. Nei 15 anni successivi, Wiener rimase particolarmente spaventato, preoccupato dell'automazione industriale e addirittura giunse al punto di incontrare un dirigente sindacale che si chiama Walter Reuter per suggerirgli, per ragionare sul modo in cui i lavoratori avrebbero potuto combattere contro le minacce che la tecnologia poneva. Ecco, voi vedete nella figura di questo scienziato, Norbert Wiener, che è uno scienziato e anche, diciamo, un ingegnere, un tecnico, un costruttore di macchine, vedete però che in lui è presente questa duplice anima. Da una parte è colui che costruisce gli automatismi, dall'altra parte però è anche un intellettuale, un essere umano che si rende conto della pericolosità politica, sociale delle macchine che lui stesso sta costruendo. Ecco, il tema su cui sto cercando di chiamare la vostra attenzione è evidentemente quello della consapevolezza critica o autocritica della tecnica, e non della tecnica ma dei tecnici, eccoci, la consapevolezza che si fa strada poco alla volta all'interno della comunità scientifica di una pericolosità, di una potenzialità dell'agire tecnico-scientifico e della necessità di predisporre gli strumenti per evitare che questo pericolo si dispieghi. Ora, il caso di Norbert Wiener è particolarmente interessante perché, non solo perché è il primo, non è proprio il primo, perché già all'epoca del Manhattan Project, cioè qui parliamo già degli anni 50 e invece il Manhattan Project è degli anni 40, già allora il problema era stato consapevolmente dibattuto da Oppenheimer ed Einstein, per esempio. Ma qui Wiener sta facendo un ragionamento che è molto più centrale di quanto fosse quello del Manhattan Project, perché lui lavora proprio sulla questione, direi, essenziale di tutto il processo di trasformazione tecnologica, la cibernetica, cioè la simulazione tecnica e la creazione di sistemi tecnici che simulano il cervello umano. Dunque, Wiener sta lavorando proprio sulla costruzione degli automatismi dell'automa e dell'automatismo come principio. Cos'è un automatismo? Un automatismo è la trasformazione di un processo in una successione di passaggi che si implicano necessariamente. Noi abbiamo un automatismo quando una successione di passaggi vengono per l'appunto automatizzati, vengano implicati in maniera necessaria come fossero lo svolgimento di un ragionamento logico. Quando un processo di tipo materiale, sociale o fisico viene trasformato in uno sviluppo logicamente implicato, parliamo di un automatismo. Quando una successione di passaggi vengono trasformati in una successione di implicazioni necessarie, parliamo di un automatismo. Ebbene, Norbert Wiener ha lavorato proprio sul modo in cui il cervello umano può essere trasformato in un automa. Partendo da questa sua, diciamo, attività, da questa sua costruzione, da questo suo, da questa sua realizzazione, Wiener ricava una coscienza generale relativa alla pericolosità, alla possibilità pericolosa di creare sistemi tecnici che finiscono per soggiogare, piegare, sottomettere la azione umana e l'azione sociale. Bene, io con questo concludo la prima parte del nostro ragionamento. Cioè, in questa maniera direi dovremmo avere capito che fino dagli anni diciamo pre-informatici, pre-digitali, gli anni in cui le tecnologie informatiche sono ancora nella fase di elaborazione teorica o di prima realizzazione tecnica, già in quegli anni è presente una consapevolezza della contraddizione implicita nel lavoro tecnico. Una contraddizione che consiste nel fatto che il lavoro tecnico costruisce degli automatismi e questi automatismi potranno poi diventare strumento che sottomette la volontà umana. Fin dagli inizi, dicevo, fino dagli anni 30, 40, 50. Negli anni 60, nel 64, nel caso di cui abbiamo parlato e di cui parla questo libro, e poi nel 68 in maniera più generale, più universale, negli anni 60 questa consapevolezza della contraddizione implicita nel sapere e particolarmente nel sapere tecnico diventa l'anima stessa di un movimento che è un movimento sociale molto ampio, ma che non è solo un movimento sociale, è precisamente un movimento studentesco e dunque è il movimento composto, è un movimento sociale composto da coloro che sono propriamente i portatori del sapere, sono coloro che si stanno formando per diventare tecnici, per diventare scienziati, per diventare ingegneri, per diventare costruttori dei sistemi tecnici. Il discorso di Mario Savio, che dice noi non vogliamo diventare macchine, dobbiamo mettere i nostri corpi contro gli ingranaggi e così via, questo discorso è in qualche modo la trasformazione politica, la trasformazione in termini di movimento, di una consapevolezza che si era già andata formando fin dalle origini della trasformazione tecnica di cui stiamo parlando. Siamo negli anni 60, siamo negli anni in cui nasce un movimento che problematizza il rapporto fra sapere e uso sociale, economico, tra sapiente e mercante. La seconda parte del libro è dedicata alla cibercultura, cioè al modo in cui la coscienza, le forme di immaginazione che si erano formate negli anni 60 vengono poi sviluppati all'interno del sistema tecnico digitale, concretamente realizzato, concretamente sviluppato. Allora, noi a questo punto dobbiamo continuare il nostro discorso su due piani. Da una parte dobbiamo chiederci cos'è, come si concretizza a partire dagli anni 70, 80 e poi in maniera più rapida e ampia negli anni 90 la rete, cioè che cosa, come viene costruito quel sistema che al tempo stesso è tecnico e sociale, che noi oggi chiamiamo internet. Quindi questo è il primo ragionamento che dovremmo svolgere, anche se si tratta di una questione, diciamo, largamente nota. E il secondo ragionamento che dobbiamo fare invece è quali forme di consapevolezza e di autoconsapevolezza vengono a manifestarsi nel corso degli anni della cibercultura. La cibercultura continua la controcultura, ma anche in qualche modo ne realizza alcune premesse, ma anche in qualche modo ne tradisce o trasforma alcune premesse. La controcultura nasce come utopia di un mondo in cui l'informazione sia accessibile a tutti. Information to the people, questo è lo slogan del movimento controculturale degli anni 60. E la rete è proprio la realizzazione di questo sogno, in un certo qual modo, no? È proprio la realizzazione del sogno di una società in cui l'informazione sia accessibile a tutti e in cui il processo produttivo sia integrato con l'informazione. Ma dall'altra parte, in questo realizzarsi dell'utopia è accaduto qualcosa che l'ha pervertita nella sua radice stessa, e cioè l'utopia controculturale, per potersi realizzare, ha dovuto andare al mercato, ha dovuto diventare parte del processo di accumulazione capitalistica, ha dovuto cioè accettare delle modalità concrete di realizzazione, di articolazione, che sono quelle che la controcultura aveva rifiutato, aveva contestato. Quindi questo passaggio dagli anni 60 agli anni 90 è un passaggio che implica al tempo stesso uno sviluppo, una realizzazione, e al tempo stesso implica invece un pervertimento, un tradimento, per così dire, in modo un po' drammatico, di quello che era stato previsto. Ecco, a me piacerebbe nel prossimo futuro quindi sviluppare, d'altra parte qui lo dico, sviluppare l'immaginazione che di questo passaggio, in questo passaggio si viene compiendo, l'immaginazione, e quindi l'immaginazione artistica, l'immaginazione letteraria. C'è un campo di questa immaginazione che fra gli anni 80 e gli anni 90 registra, incorpora, percepisce, traduce la contraddizione di cui stavo parlando. C'è un campo letterario che nasce dalla consapevolezza del pericolo, della pericolosità di questa integrazione fra macchine e cervelli, e che però al tempo stesso ne sente la fascinazione. Ecco, questo campo sul piano letterario prende nome di cyberpunk o cyberpunk. Il cyberpunk, del quale parleremo la prossima volta, è uno degli oggetti su cui Antonio Caronia ha lavorato più ampiamente negli anni 90 e nei primi anni 2000. E il cyberpunk è una continuazione dell'atteggiamento critico dei movimenti degli anni 60, della controcultura degli anni 60, però porta quel tipo di coscienza, quel tipo di sensibilità, la porta direttamente all'interno delle nuove tecnologie che si stanno costituendo negli anni 80 e negli anni 90. Naturalmente, per poter contestualizzare la produzione del cyberpunk, per capire che tipo di contesto si era formato, dobbiamo ricostruire la storia tecnica del passaggio dall'informatica alla telematica, cioè alla costruzione della rete. Tutti sappiamo, credo, che la storia di Internet è una storia che inizia anche questa alla fine degli anni 60, tra il 68 e il 69. Il sistema militare americano, ancora una volta, vediamo che il militare svolge una funzione decisiva nelle trasformazioni tecniche, il sistema militare americano ha bisogno di creare una forma tecnica che permetta di difendere le informazioni militari da un possibile attacco nucleare sovietico. E quindi nel 68 viene creato un sistema telefonico, o piuttosto telematico, telefonia più informatica, che prende nome di ARPANET. ARPANET è l'antenato di quello che poi diventerà Internet. ARPANET è un sistema molto rudimentale, insomma, si fa per dire, rispetto a quello che poi sarà Internet, possiamo definirlo rudimentale. ARPANET è basato sul principio che l'informazione contenuta in un computer può essere diffusa attraverso la rete telefonica in diversi computer. E quindi i generali americani si dicono: se noi teniamo tutta l'informazione militare dentro i computer che stanno all'interno del Pentagono, è sufficiente una bomba russa per distruggere l'informazione di cui noi disponiamo. Se invece questa informazione la distribuiamo in 10 computer diffusi nelle varie aree geografiche del nostro paese, non c'è più quel pericolo lì, salveremmo in questa maniera l'informazione di cui disponiamo. Il principio è evidentemente quello della distribuzione telefonica dell'informazione, e questo principio negli anni, nei decenni successivi, fa una lunga strada. Nel corso degli anni 60 e 70 abbiamo un lento sviluppo di applicazioni nel campo militare e poi nel campo accademico. Alcuni centri di ricerca europei e americani cominciano a mettere nella rete telefonica le informazioni contenute nei computer di alcune grandi centrali della ricerca universitaria. Poi, negli anni 80, questa possibilità comincia ad essere aperta nei confronti del grande pubblico. E negli anni 80 abbiamo due grandi sperimentazioni, una in America e una in Francia, che sono le prime sperimentazioni di sistemi di rete, diciamo così, aperti al pubblico. Uno è il sistema di comunità virtuale che si chiama Wall Earth Electronic Link, che è un sistema di scambio di messaggi all'interno di una comunità elettronica californiana, territorializzata in California. L'altro è un sistema di distribuzione di massa dell'informazione che prende il nome di Minitel e che viene messo a disposizione della popolazione francese a partire dal 1981. Minitel praticamente è già internet come concezione. Minitel è una rete telefonica che serve 1 milione di piccoli computer, dei computer che venivano prodotti e distribuiti dallo Stato francese. E, questi computer venivano collegati attraverso la rete telefonica e potevano ricevere informazioni sugli orari ferroviari, sulle previsioni del tempo, su quello che si può vedere al cinema nelle città francesi, e a un certo momento cominciano anche a portare informazione prodotta direttamente dagli utenti, cioè messaggerie. Praticamente è un sistema concettualmente analogo a quello che poi diventerà negli anni 90 internet. Nel Minitel manca una cosa essenziale, che è un motore di ricerca. Cioè per poter accedere all'informazione, il Minitel ti richiedeva un codice, cioè dovevi sapere che il numero 2374 ti dava accesso alle informazioni sui treni, o che un certo altro numero ti dava accesso alle informazioni su qualcos'altro, oppure che un certo codice ti dava accesso allo scambio di messaggeria. E lo Stato francese decise di non aprire il suo sistema nei confronti degli altri paesi. La lingua era il francese e l'accessibilità del sistema era legata al sistema telefonico nazionale. Perché? Beh, questo è un argomento molto interessante, bisognerebbe capire, cioè, bisognerebbe tenere conto della formazione politica, del contesto politico in cui questo sistema viene creato in Francia. Il contesto politico è quello della ideologia nazionalista della sinistra francese, dell'idea secondo cui un servizio di questo genere deve essere un servizio nazionale, un servizio per la comunità nazionale. Inoltre bisogna tenere conto del fatto che il Minitel non è in grado di trasportare immagini, quindi è solo un sistema di segni scritti. Queste sono due differenze decisive rispetto a quello che poi diventerà Internet. Internet sarà prima di tutto un sistema basato su un'accessibilità internazionale e in secondo luogo viene concepito in maniera tale che nel corso del tempo potrà trasportare immagini. E, però già dagli anni 80 noi vediamo che si stanno formando le condizioni tecniche e anche le condizioni culturali perché la rete possa prendere piede. Il vero passaggio a quella che noi oggi chiamiamo Internet è la creazione del World Wide Web, cioè insomma la creazione di un sistema tecnico, ma soprattutto di un concetto che è quello della navigazione, della navigabilità dell'oceano dell'informazione universale. Ecco, la formazione della rete dunque passa attraverso una serie di passaggi tecnici, ma passa soprattutto attraverso una evoluzione di tipo culturale, di tipo immaginario, e questa evoluzione culturale è da una parte un'evoluzione di quel discorso Information to the People, che era nato all'interno dei movimenti di controcultura degli anni 60, ma dall'altra parte è un'evoluzione culturale che si collega in maniera stretta con questa doppia coscienza che abbiamo visto nel discorso di Wiener, questa coscienza del fatto che il sapere, la ricerca, l'informazione sono esposte ad una possibile strumentalizzazione, ad un possibile sfruttamento, che è quello che proviene dal mondo dell'economia. Ecco, io qui la faccio finita e noi ci rivediamo partendo da alcune cose. Uno, voi portate questo libro, io cerco, il titolo è? Il titolo del libro di Caronia, me l'avete detto prima? La vita delle immagini, la vita delle immagini, ve lo vado a cercare. Quindi intanto vediamo se è possibile integrare quel libro con il discorso che io sto facendo adesso. Poi però la vita delle immagini. L'autore è Jean-Jacques Vandenburger. Non l'ho capito. L'autore è Jean-Jacques Vandenburger. Ah, è Vandenburger. Ah, ma allora ho capito. Allora probabilmente ce l'ho in francese. Vandenburger. Sì, in francese si chiama La philosophie des images. Ho capito di che si tratta. Quindi partendo da questo, vabbè, vedremo come sia possibile integrarlo con eventualmente, poi adesso non ce l'ha ordinato il dottore di svolgere questo programma, possiamo anche decidere, io cerco di portare a compimento il mio discorso su cibercultura e letteratura cyberpunk e il modo in cui Caronia ha tradotto per il pubblico italiano le questioni del cyberpunk, dopodiché possiamo dedicare un po' di attenzione al libro di Vandenburger, che certamente, se l'aveva scelto Caronia, è coerente con i temi di cui stiamo parlando. Bene, arrivederci.